Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro quattordicesimo, versi 308-608. Macareo, uno dell'equipaggio di Ulisse, ha raccontato come grazie al comandante, che dopo un rude negoziato con Circe ne è diventato l'amante, i marinai abbiano recuperato le fattezze umane sottratte loro dalla maga. Ci tratteniamo da Circe circa un anno e non posso dirti tutto quel che ho visto e ascoltato in tutto quel tempo. Di tutte te ne racconto una che mi ha raccontato in segreto una delle quattro servette addette a quei riti che sai. Una volta che Circe si era appartata da sola col capo, la servetta mi mostra una statua scolpita nel marmo bianco. La statua d'un giovanotto con un picchio sopra la testa, collocata dentro un tempietto, pavesata di 100 ghirlande. Incuriosito, le chiedo chi è quello, come mai abbia un tempietto tutto per sé e porti un volatile in capo. Ascoltami, Macareo, dice, e renditi conto di quanto sia potente la mia padrona, ma prestami bene attenzione. Regnava un tempo in Italia Pico, figlio di Crono, con la mania dei cavalli addestrati per fare la guerra. Quanto era bello, lo vedi. La bellezza non si nasconde, e da questa immagine finta puoi farti un'idea della vera. Bello dentro non meno che fuori. Non aveva ancora assistito per la quarta volta alle gare quinquennali di Olimpia nell'Elide e già le driadi dei monti del Lazio con quella sua faccia stregate le aveva. Per lui smaniavano tutte le dee delle fonti, le naiadi, quelle del fiume Numico e dell'Albula, dell'Aniene e del torrentello brevissimo Almone e del Naro precipitoso e del Farfaro che scorre in un'ombra fittissima e quelle che vivono nel bosco che include gli stagni di Diana e nei laghi contermini. Lui non ne vuol sapere e non ha occhi che per una ninfa nata sul Palatino dagli amori di Giano Bifronte e di Venilia, raccontano, la quale, raggiunta appena l'età da marito, andò sposa a lui Pico, re di Laurento, preferendolo a tutti gli altri. Di straordinaria bellezza era ancor più straordinaria a cantare. Quella che canta, la chiamavano. Quando cantava, smuoveva i boschi e le rocce, inteneriva le belve, frenava il corso dei fiumi, tratteneva gli uccelli di passo. Un giorno che lei cantava con dolcissima voce di donna, Re Pico è uscito di casa per battere il territorio laurentino a infilzare cinghiali del posto e cavalca a pelo un focoso cavallo e brandisce nella mano sinistra due lance e indosso ha un mantello di porpora con tanto di borchia d'oro. Nella stessa boscaglia chi capita? La figlia del sole. Lasciati i campi circei, che prendono il nome da lei, va facendo incetta di erbette novelle sulle alture del Laurentino. Non fa in tempo a vedere il ragazzo, nascosta com'è nella macchia, che perde la testa. Il raccolto di erbe le casca di mano. Si sente per le midolla serpeggiare un serpente di fiamma. Appena riprende il controllo del rogo di quel desiderio, è tentata di confessarglielo, ma il galoppo del suo cavallo e la scorta che lo circonda le impediscono di avvicinarlo. «Non mi scappi», dice, «nemmeno dovesse portartisi il vento, se un po' mi conosco, se tutta la virtù delle erbe non è svanita, se gli esorcismi non lasciano il tempo che trovano». Ciò detto attiva un fantasma di cinghiale senz'ombra di corpo, e gli ordina di galoppare proprio sotto gli occhi di Pico e di cacciarsi, far finta di cacciarsi, nel cuore di un bosco dove i tronchi son così fitti che un cavallo non c'entra davvero. Un attimo e il re c'è cascato. Si avventa dietro quell'ombra di preda, lascia la groppa del cavallo che schiuma e di corsa si avventura nel folto del bosco sulle tracce d'una chimera. Lei formula sue preghiere e pronuncia incantesimi suoi, invoca magici dei con le magiche cantilene che adopera per confondere una candida faccia di luna o per tessere nuvole gonfie sotto il viso del sole, suo padre. Intonate le formule magiche, anche il cielo si aggronda, la terra esala un nebbione spesso, la scorta si sperde in un dedalo di sentieri ciechi, e il re resta solo. Colto l'attimo e il posto, lei prorompe: per i tuoi occhi che han catturato i miei, per la tua bellezza, bellissimo, che costringe una dea come me a supplicarti, considera la mia fiamma e accetta per suocero il sole che vede tutto. Non essere tanto sgarbato da schifare la figlia del sole. Ma quello cocciuto respinge la maga che implora e le fa: chiunque tu sia, tuo non sono. Un'altra mi ha catturato ed dei di restare suo prigioniero per sempre. Non tradisco il patto di nozze per un'avventura di carne, finché mi conservano i fati la figlia di Giano che canta. Mille volte la maga ripete le suppliche. Inutile. Allora me la paghi, blatera, e quella che canta tu non la vedi più. Vedrai cosa arriva a fare una donna che ama se umiliata, specie se è Circe la donna umiliata che ama. Due volte si gira a ponente, due volte a levante, tre volte tocca con la bacchetta il ragazzo, tre formule recita. Lui fugge, però si stupisce di andare molto più svelto del solito e quando si accorge d'esser coperto di piume, indignato di svolazzare, uccello mai visto, nei boschi del Lazio, col becco durissimo crivella le querce selvatiche e furibondo ferisce i rami per quanto son lunghi. Dal mantello prende il piumaggio la cresta di porpora, l'oro della borchia che un tempo fermava la sopravveste si è fatto la coroncina d'oro che gli gira intorno alla testa e di prima non gli rimane che il nome Picchio per Pico. Per intanto i compagni di caccia che lo hanno cercato nei campi urlando senza trovarlo da nessuna parte si imbattono in Circe che aveva a quel punto assottigliato l'aria consentendo ai venti ed al sole di dissipare la bruma e la investono come si merita, reclamano il re, la aggrediscono fino a minacciar di colpirla coi giavellotti. Ma lei si copre con una cortina di fetori e di succhi letali e convoca notte ed erebo e caos, dei della notte, ed evoca Ecate con ululati interminabili. Sobbalzano le foreste, anche se tu non ci credi. Rantola il suolo, gli alberi circostanti impallidiscono, i pascoli tutti intorno trasudano gocce di sangue, le rocce sembrano emettere muggiti sordi, latrare i cani, di serpi nerastre brulicare tutto il terreno e volitare per l'aria le anime tenui dei morti. Atterrita da tanti portenti, sbalordisce la truppa e lei, Circe, con la bacchetta magica, non tocca che facce da idioti e al tocco quei giovanotti si alterano in animali di tutti i tipi. Nessuno rimane quello che era. Già Febo a tramonto irrorava di luce le coste di Spagna e quella che canta aspettava ancora con gli occhi e col cuore suo marito. La servitù e la gente del popolo battono in lungo e in largo l'intera boscaglia a lume di torcia. E la ninfa non si accontenta di piangere, di strapparsi i capelli, di battersi il petto. Lo fa, ma non si accontenta e si aggira per le campagne del Lazio come una pazza. Sei notti e altrettanti ritorni della luce del sole la videro vagabondare, senza mai prender sonno né cibo, per monti e per valli, dovunque il caso la balestrasse. A vederla l'ultimo è il Tevere, sfinita di camminare e di soffrire, sul punto di accasciarsi sulla sua riva, e lì, disperata, piangendo esalava fievoli suoni di parola che, modulati dal dolore stesso, evocavano il canto che canta il cigno quando sta per morire. Allo stremo poi dello strazio, liquefatta fin dentro le ossa, si strugge e svapora pian piano, leggera nell'aria leggera. Ma è rimasto un ricordo di lei nel luogo che le camene han chiamato con il suo nome, Canente, quella che canta. Ecco un saggio di quanto ho ascoltato e visto in quell'anno eterno, finché noi, sfaticati e viziati dalle cattive abitudini, ridobbiamo, è l'ordine, prendere il mare, spiegare le vele. Predice percorsi intricati, Circe, una rotta infinita, i pericoli che ci riserva la ferocia del mare. Confesso, mi presi paura e trovata questa spiaggia ci ho messo radici. Così parlò Macareo, e a questo punto la balia di Enea, dentro un'urna di marmo, ha questo breve epitaffio. Qui giaccio Caieta, sottratta dalla famosa pietà del figlio di latte alle fiamme dei greci e cremata a dovere. Dal terrapieno erboso i troiani mollano i cavi e, lasciandosi dietro le insidie e i palazzi della spregevole dea Circe, cercano il bosco dove il Tevere, annuvolato d'ombra, scarica in mare il giallo della sua rena. Enea guadagna la reggia di Latino e ne ottiene la figlia, ma non senza guerra. Combattere dovrà con gente selvaggia e con Turno, che è pronto a tutto pur di avere la sposa promessa. Affluisce nel Lazio l'intera Etruria e ci si contende, rimanendo a lungo le armi, una vittoria difficile. Per rafforzarsi non c'è chi non si procuri alleati, in molti appoggiano i rutuli, in molti il campo troiano. Enea non si reca a vuoto nel territorio di Evandro, mentre a vuoto Venulo va nella città di Diomede, il quale esule, all'epoca di re Dauno, aveva fondato una grande città, ricevendo in dote l'intera Iapigia. Ma quando gli si presenta un Venulo con il mandato di Turno a chiedere aiuto, l'eroe dell'Etolia si scusa, assumendo di non voler coinvolgere in una guerra le genti del suocero, senza aver da mettere in campo nessuno dei suoi. Ma perché non pensiate che siano pretesti, anche se rievocare un lutto è ravvivarne l'amaro? Proverò a raccontare. Quando brucia di Troia, le fiamme dei greci si erano divorata l'intera città, Aiace, quello d'Oileo, col rapire vergine a vergine, tirò su noi tutti il castigo che meritava lui solo, e noi tutti ci sparpagliammo, sbattuti dai venti, su mari ostili, esposti alle tenebre, ai diluvi, ai fulmini, alle ire del cielo e dell'acqua, per chiudere col disastro di Capo Cafareo. Ma per non tediarvi troppo col dettaglio delle disgrazie, Dirò che a quel punto la Grecia avrebbe fatto pietà a Priamo. Io, peraltro, mi sono sottratto ai flutti per grazia di Minerva, però mi vedevo ancora cacciato di patria in quanto Venere, memore d'una vecchia ferita, esigeva ancora vendetta. Così ho dovuto patire a tal punto i travagli dell'alto mare e le battaglie di terra che tante volte ho pensato: felici quelli inghiottiti tutti insieme dalla burrasca sotto il subdolo capo Cafareo. Tante volte avrei proprio voluto essere uno di loro. Stremati dal mare e dal resto, i compagni pretendono la fine di quell'andare per acqua. Non ne possono più. Certo Acmone, un tanghero incanaglito dalle sventure: ragazzi, che cosa aspetta la vostra pazienza per dire basta così? Prorompe. Potrebbe Venere, anche volendo, far di più di quello che ha fatto. Finché puoi temere il peggio, sei vulnerabile ancora, ma se arrivi all'ultimo stadio, la paura non fa più paura. Il fondo del fondo è la pace. Mi senta pure, se crede, e seguiti a odiarci tutti, noi uomini di Diomede. Del suo odio noi tutti, uomini di Diomede, ce ne freghiamo, per quanto possa costarci. Con espressioni del genere Acmone provoca Venere, già maldisposta, e riattizza quella sua collera antica. La sparata a qualcuno piace, ma noi, veri amici di Acmone, deploriamo tutti in coro. Vorrebbe risponderci a tono, ma gli si assottigliano insieme la voce e la via della voce, i capelli diventano piume e piume gli coprono un collo stranissimo, il petto e la schiena. Sulle braccia spuntano penne molto più lunghe, i gomiti gli si incurvano in ali leggere. Le dita invadono tutta l'ampiezza dei piedi, la bocca indurisce, diventa di corno e finisce a punta. Trasecola Lico, trasecola Ida, e Nitteo e Ressenore e Abante trasecolano a guardarlo, e a guardarlo assumono la stessa figura. I più dei compagni si alzano in volo a stormo e ruotano intorno ai remi, schioccando le ali. Se adesso tu mi chiedi la forma precisa di questi uccelli improvvisi, ti dirò che cigni non sono, ma somigliano ai candidi cigni. Vedi bene, coi quattro soldati che mi avanzano, reggo a fatica terreni brulli e città di Dauno Iapige, mio suocero. Così Diomede, nipote di Eneo e Venulo, lascia il suo regno neogreco, il golfo dei Peucezzi e i campi messapici. Lì vede, che vede, una grotta nelle penombre d'un bosco irrorato di goccioline, all'atto sede di Pan Emicapro, ma un tempo abitato dalle ninfe. Un pastore pugliese cacciò queste ninfe lontano dal bosco e dalla regione, prendendole alla sprovvista e spaventandole tanto. Ma appena tornate in sé, disgustate da chi le inseguiva, cominciarono a muovere i piedi in belle figure di danza. Il pastore sghignazza, rifà le figure con zompi da bettola e rincara la dose sparando parolacce e proposte oscene. Ma non ha chiuso la bocca che una corteccia lo strozza, la corteccia d'un oleastro, il succo del quale il carattere denuncia del tipo. Le bacche tradiscono con l'amarognolo il linguaggio triviale e conservano l'allappo delle parole. Rientrato Venulo con la notizia che il greco Diomede l'alleanza rifiuta, pur senza rinforzi, i rutuli insistono nella guerra avviata. Da ambo le parti son fiumi di sangue. Quand'ecco che Turno, decide di bersagliare di fiaccole i legni alla fonda. Scampati all'acqua, ora rischiano il fuoco. E Dio fuoco si appicca di già alla pece, alla cera, a quant'altro si presti a bruciare. Di già per l'alberatura si arrampica alle vele e il fumo di già avvolge i banchi dei remi. Quando memore che quei pini sono stati segati sull'Ida, la madre di tutti gli dèi colma l'aria d'un tintinnare di bronzi percossi e del rantolo sordo dei flauti di bosso. E tracciando sul carro tirato da leoni domestici il cielo, che appicchi incendi a fare con quella manaccia sacrilega, Turno? E pensi ch'io tolleri, dice, che l'ingordigia del fuoco divori le membra vive dei miei boschi? Escludilo, Turno. Non ha finito di dire che rimbomba un tuono e col botto si rovescia un diluvio e nell'acqua saltella la grandine e i tre venti, figli di Astreo, si scatenano come a comando, sconvolgendo il piano del mare e azzuffandosi in rissa fraterna. Sfruttando la bella veemenza d'uno dei tre, la gran madre strappa le funi che ormeggiano a riva le navi dei teucri, le trascina prora all'ingiù e in mare aperto le inghiotte. Il legno si ammorbidisce e diventa carne di corpi. Le poppe bombate si cambiano in facce umane, in dita e gambe che battono l'acqua si tramutano i remi, le fiancate restano fianchi, la chiglia che corre sull'asse dello scafo ora fa le funzioni di spina dorsale, le sartie son capelli morbidi, braccia son diventati i pennoni. Il colore è sempre l'azzurro, alle onde che prima temevano, adesso ci giocano dentro come bambine. Le naiadi del mare, nate su dure montagne, adesso si dondolano nel fluido dell'acqua senza preoccuparsi di dove son nate. Non dimenticando però gli infiniti pericoli corsi sul mare in tempesta, ora tengono in palmo di mano le navi sballottate dalle onde, purché non siano navi di greci. Troppo vivace è il ricordo del massacro di Troia per non odiare gli argivi, e fanno festa a vedere i vascelli di nerito fracassarsi e fan festa a vedere indurirsi l'imbarcazione di arcino e il legno prodursi in roccia. Animata la flotta di naiadi, c'era di che sperare che a tanto portento il rutulo desistesse dal fare la guerra. Insiste. Ogni parte in campo ha i suoi dèi e ha il proprio che vale gli dèi. Non combattono più per la dote di un regno, non per lo scettro di un suocero, non per te, Lavinia fanciulla, soltanto per vincere, per evitare l'onta di arrendersi. Ma alla buon'ora Venere assiste al trionfo del figlio, Turno soccombe Ardea, l'airone, gloriosa finché Turno era vivo. Una volta cancellata dal fuoco straniero, le case sepolte sotto una tiepida coltre di braci, dal centro delle macerie si leva in volo un uccello sconosciuto e si sgrulla le ceneri sbattendo forte le ali. Rantolante e maciato, tutto evoca in lui la città espugnata, di quella conserva il nome, battendosi con ali di airone, Ardea celebra il lutto di sé. E già il valore di Enea ha indotto tutti gli dèi, Giunone inclusa, a deporre gli antichi rancori, allorché riposando il potere di Iulo su solidissime basi, l'eroe figura maturo per ascendere al cielo. Sua madre, brigato l'appoggio degli altri dèi, si abbarbica al collo di padre Giove, papà, Mugola, come sei sempre stato buono con me, te ne prego, sii buonissimo adesso. E al mio Enea, sangue mio, come dire tuo nipote, concedi, padre immenso, un suo rango nei cieli, marginale quanto vorrai, purché rango. Potrebbe bastargli aver già visto una volta l'orribile regno dei morti, aver già traghettato lo Stige. Gli dei sono tutti d'accordo. La stessa consorte del re non fa lo sguardo di ghiaccio. Al contrario, annuisce benevola. E Giove, la meritate tutti e due questa grazia. Tu che chiedi, lui per cui chiedi. Figlia, prenditi quello che vuoi. Ha parlato. Esulta la dea, ringrazia suo padre e sul tiro di colombe raggiunge traverso l'aria leggera la spiaggia di Laurento, dove il fiume Numico, velato di canne, versa nel mare vicino il serpente delle sue acque. Lei gli ordina di lavare tutto quanto fosse passibile di morte in Enea e nasconderlo nel fondo del mare in silenzio. Il fiume, con tanto di corna, assolve al mandato di Venere. Irrorandolo con le sue acque, purga Enea di quanto passibile di morte e gli lascia soltanto il meglio del meglio di sé. Il corpo purificato, la madre glielo unge di unguenti divini, gli sfiora le labbra con un misto di ambrosia e di nettare e lo ordina a Dio, quel Dio che il popolo di Quirino riconosce Dio della patria, dedicandogli templi ed altari.